Sta via, a gente non c'è capo, se fa la processione che cammina piano piano, non è morta nessuna, non ne osante nessuna, non si sente una voce e non suona la campana, e intanto corre aspetta. Sarà buona fontana e chiama in capo a creatura e sarà buia sta luna con la funa, mamma porta lontana, mamma porta lontana, a tuo cielo che cielo non se fa mai scuro. Sta via, perché non spunta mai, se perde l'interprete, mie ze carte ravugliate, sotto le vere mura, casa rampa che giura, e gli stemma riuorna, e serate senza pane, e intanto cuore aspetta. Sarà buona fontana e chiama in capo e creatura volesse ravuglia sta luna con una fuma e ma porta lontana e ma porta lontana a tuo cielo che cielo non se fa mai scuro. Sto su mano.